la morte del personaggio di cui parleremo, anzi di cui ascolteremo suoni stasera, ci ha introdotti a questa puntata dedicata a Lorenzo Calogero, il poeta di Melicucca, Reggio Calabria, un poeta che ha solo da pochi ascoltato, ha illuminato la poesia italiana nell'arco di qualche breve decennio, tra il 1910 quando era nato e il 1961 quando è morto in maniera misteriosa dopo tentativi di suicidio, sofferenze, ricoveri, qualche libro di poesia uscito per l'interessamento dei pochi che l'avevano apprezzato. Ma come sapete, Arebur non fa monografia, ma fa ascoltare pezzoni di suono, e quindi noi ascolteremo le poesie di Lorenzo Calogero e qualcosa che ho voluto accostarci, come sempre. Buon ascolto. Sacrebbe la tua bocca d'acqua piovana, e un lume era tenue sospiro pieno del suo tempo, e giunto non s'accordava la tua strada. Non so che limiti, che lineamenti erano, un più o un meno, un moto, un crescere veloce del tuo tempo nel vano vuoto verso uno che ti amava. E tu eri a similitudine del suo male. Tu incrementi per lei, per via, la follia di questo clive di silenzio autunnale. E molti mormoravano per via, e il nevischio dietro il vetro sale. E lungo la terrazza questa inamovibile pena quando fa giorno. Sapevo, e per virtù ridotta, non giunse mai nessuno. Ora era calmo l'ordine, l'ardire sopra uno sghembo tondo che tagliò il viso d'autunno sopra un trono. Non ho mai visto nulla di simile nella tua vita. Non ho mai visto nulla di simile nella tua vita, oltre un contadino che, oltre le sue terre, numerò la febbre e il pube tuo sulle tue dita come un tuo racconto. Nulla era vero o questo fu vero, e fu come un intoppo. Hai la sagoma alata densa della vita, o questa fu la strana, forse, la strana origine del mondo. Forse è l'arida tua bocca, e il messo è distante. Forse per parte di questo altalenare le rupi erano sparse, e questo con ordine sensitivo, forse un corpo accanto a un cipresso emerso era ed eretto, e le libellule rimaste erano per poco verso antri questi quadruplici e distanti istanti erano quadrangolari. Avevi scorto e distendevi da corpo a corpo questi filari di giullari o questi segreti irti inutili di baci sulla lievità del sole e d'oro bianco. Un corpo, uno fra essi, era risorto entro lo screzio di un silenzio bianco, e questo mormorarono parecchi morti, e il tuo letto era anch'esso inutile bianco. Mi vuoi dire quale arte, per quale cagione tu sei così sottile e sono così fluidi i tuoi capelli in un trapezio o un circo triangolare? Uno di essi addensò su di te il suo segreto, e un cavallo è bianco che tagliò nuda una linea dell'immensa cavità della densità del sole così nuda, buia, sull'oceano. E benché pochi numeri erano i giorni e il mattino uno stelo, e di tanto metallo un giorno con tedio forse non era altro che un corto stormo estremo di civiltà tramontate, ma per te si ragion di fosca la luna. Non era ombra con ordine, con poco, un mattino irrequieto, un astro, un inno, un grido di battaglia, questo che ai tuoi piedi s'addorma. Questo serviva forse per poco o per una lodola che più non ritorna indietro. La luna ha il suo miele, filigrane infilzate dentro un raggio di sole. Una nuvola si alza verso confini oceanici a disseminare di luce i paesaggi. Io resto solo con la mia musica. Taglio con le forbici paesaggi cartografici che sfilano innanzi, cadono attorno come pioggia incessante d'amore. Taglio a sghembo le case sul profilo del sole che vedo cadere come avvizziti fiori, nuvole basse di mezzalune. Metto i piedi sopra una terra di luce e di sole. La luna ha il suo miele. Se non lo sapevo, sciupavo tanta bellezza. Sui comignoli delle case, sui tetti passano miraggi e si increspano nella lucida lucentezza e trasparenza delle acque e fanno di onde immersi una bandiera. Rimetti un po' quei piedi dentro le scarpe, che ci voglio attaccare la peste? Ammazzate come puzzi. E che è colpa mia? È tutto il giorno che camminiamo. Tacci tu, puzzi più da vivo che da morto. Volevo fare una confessione. Ma sai quanto che non volevo i piedi? Ti hai conto che sono in mare? C'è una cosa, persa la scarpa e hai rotto il principe. Se stava per dire, la riporti nei pompieri. Ma ti rendi conto? C'hai una fortuna nei piedi, dai, scusa. Erdi di ti ammazza i mosche, ma te ammazzi pure i cavalli. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire du tout. Avete ascoltato nell'ordine una lettura da Lorenzo Calogero di Roberto Erlizka, una fatta da me, uno spezzone che avrete conosciuto sicuramente di Accattone di Pierpaolo Pasolini, il film uscito nello stesso anno in cui è morto Roberto Calogero, e l'inconfondibile voce di Charles Aznavour che canta La Bohème. Angelo della mattina, risvegliami ancora per la nuova fulgente aurora che s'arrossa sull'orizzonte o s'incrina. Io sono uno strano mendicante che chiede amore e parole. Sono un solitario emigrante verso le terre della luce del sole. Vienimi coi tuoi fulgori, angelo che non ristai, coi tuoi infiniti fulgori, con le movenze che tu sai, e crescimi delle meraviglie di quanto raccogli negli occhi neri, degli infiniti misteri che tu celi dentro l'arco dei cigli. Fammi conoscere ciò che tu conosci, i riflessi della tua bocca chiara, mutevolmente nel mio cuore già amara, è una musica, una magica forma in una pioggia che scrosci. Anvedio, chi ci manda sto cami al cielo? Son mortadelle, mimo son 20.000 lire. Parte, cartaggine! C'ha fede nella provvidenza, non si morirà mai di fame. C'ha ragione Stella. Ora Stella mia. Accattù, che c'è? Che te sei? Accattù. Ah, molto bene. Dalla cenere ho un nome nuovo in questa continua discesa, quando con cura una furia nel cuore pesa. Questa è la voce tua, è continuamente in attesa, continuamente svolazza. Io sapevo nulla della tua cupa storia. Volevo appropriarmi della voce tua, o della tua voce cupa di cenere, o della solidità della carne. O questa è una preghiera o una presaga bufera. Mi riprometto di richiamarti a gran voce, con veloce disattenzione, o questa è la fine, il silenzio di tutto, e tu eri così opaca, amorfa agli uomini. Di vestiti non era l'ora più, non era più soffice la terra, e inganno, quiete, divelti a un fiore, non erano più quest'arco grido vivo e rigido, volubile, di corpi morti che ti serra. Raggi accesi non sai più se ardono, riflettevano, versavano se stessi sulla veste tua o in quella che era tua d'un altro. Sorella morte era di già, mobile, giunge ora veloce notte, chiusa e rapida, che ti rapì. So di non essere ancora, non sogno, non penso disilluso, retrivo ai giochi, i giochi tuoi lucenti, conosco sempre in margine un'immagine di me, come un me più semplice. Vergine era nell'amore una parola, e tu, vestita da regina, eri l'amante dei sogni, o una favola, o la parola. Dangerous place. A savage place. Avete ascoltato la lettura di Angelo della Mattina di Lorenzo Calogero, ovviamente letta da Carl Lesse, il seguito della sequenza finale di Accattone di Pierpaolo Pasolini, con ovviamente la voce di Franco Citti che fa Accattone, due letture poetiche fatte da me ancora di poesie ovviamente di Lorenzo Calogero, e per chiudere la trasmissione questo breve viaggio nel mondo poetico di Lorenzo Calogero, che vi invito a scoprire, non sarà facilissimo, ma qualcosa è stato ristampato recentemente. Io ho davanti per esempio un libro edito da Rubettino editore a cura di Luigi Tassoni, che si trova in libreria. Dicevo, per chiudere vi lascio alla poesia invece musicale di un musicista attivo negli anni appunto della parabola di Lorenzo Calogero, soprattutto negli anni 50 e 60, è la musica del grande Lenny Cristano, che vi accompagna verso la fine della serata con Requiem. Alla prossima settimana con Ulisse contro tutti, tra due settimane con un'altra puntata di Arebur qui su Radio ZAM. Thank you. rebours, à rebours.